tu sei che stai fischiando. Grazie a Anno, Luca e tutti gli altri fischietti. Hai mai fatto il socio, mai fatto. Canale. Chi è? Vittorio. Ehi, ciao Vittorio. Ciao Giovanni, e beh, com'è? Non ho capito. Tutto a posto, tutto a posto. Ehi, ehi. Ah, vai, gli altri ma entrano pure là, si entrano. Ma cosa stai facendo tu, il coso fisso o il coso portatile? Non ho capito. Il fisso? Non sei uscito adesso. Oh, e dove vai? Oh, non sono uscito, no. A piedi? Ah, non sono uscito le macchine a piedi. E con questo freddo riesci a passeggiare, ma scherzate, sai? No. Ah, no. Tornaccio così bisogna stare in caldo. Tu lo puoi fare, sei giovane. Io ormai sono vecchio. Avanti invece, ormai sono di riposo, e beh. E allora, tu puoi uscire a girare, anche se piove non ti fa niente a te, mentre io ho paura del freddo. Quello è giusto. Ciao Mari! Sì, ci date di sì. Bubu. Che facendo c'è? Sì, lo fai. Pusci che sabore, sono confetti. Facendo c'è. Ehi, buscicchio di sabore, la gente sono confetti. No, non c'ero Gio Mario, ero in campagna. Sono rientrati ora. Aria pura. In campagna si può stare bene, là. E mai queste giornate così. Solo nel tuo caso attaccato al camionetto puoi rimanere, basta, eh. Sì, sì. No, eravamo dentro, fuori non si poteva stare perché a parte che c'è freddo e poi stavo anche più vigilando. Perciò non. Dentro è calduccio. Infatti. Giornata dei poveri. Di stare sempre dentro casa in queste giornate così. Cioè è possibile, matta con matta. E allora? Sì, avanti Vittorio, aspetta che c'ho una chiamata, non so di chi è quel numero, un attimo. Eia, è venuto. Comunque, buonasera anche a te, Vittorio, saluto il freddo. Dai, Giovanni, avanti. Ma dove sei adesso, Vittorio? Ehi, mi sono qui. Ho detto, dove ti trovi adesso? Adesso mi trovo davanti a Coso, vicino al... come ti si chiama? Vicino a Cesaraccio, perché c'è... stavo aspettando un mio amico che si affacciasse al terreno dove stavo. Mi devo dire una cosa, ma se spegni la doccia. Allora, per quello il segnale è forte. Ma se fuori sì, no, in strada sì. Sì, e allora? Ma tu non hai paura del freddo dell'acqua, no? Non è che è più vero. Meglio stare a casa, a caldo, Vittu, catta. Ma io fino a casa non ti sento, Gio Marino, non sono come lui, io te la giudico, dici che va giù in condizioni. Quando sono a casa io non sento. Non ho capito questo momento. Quando va Giulia, io te lo freno, va, te lo freno quel complimentatore, sono a posto. Dai qua, non si muove da qua. È tutta un'altra cosa quello lì, vabbè. Quando ce l'hai, basta fare un fischio e sono qua. Sì, un fischio, anzi. Vabbè, ma quello che mi stai vendendo tu già è bello, anche se sono per casa, ma già mi piace. Quando lo provi, ti piacerà di più senz'altro, perché quello devi lasciare a casa, capito? Lo devi lasciare a casa e non sai, e non te lo porti in giro, e portartelo te lo puoi portare in giro. Perciò questo porta a tutto mi stai vedendo tu che poi vado di su visto adesso da Putin. E graziano se sentito tutti. Grazie! Anzi, lo chef bisogna chiamarlo, Attento, lo chef! No, oggi Graziano non si è sentito poco fa, so proprio inviargli un messaggio su. Su Messenger, a vedere se e chi si deve essere ancora coccato? Capito? Ha mangiato troppo! E allora si è coccato ed è ancora dormito! Oppure appena a moglio! E il minimo gli è coccato già! Ma gli assicurati, al minimo se gli dai un tempo gli assicura, grazie! Adesso Gio Marito ho raccontato a mamma di quel fatto di ieri, stavo prendendo la sede, ho raccontato la stessa municipale. E ho detto, tu sei matto, ha detto, tu devi pulire, appena vieni così, la polizia, te devi mettere su in tasca. Ma io ti ho detto come fare sempre quando esci però con l'apparecchietto, Occhio, capito mi hai? Non ti bisogna ripetere tante volte, fai come ti ho sempre io. Fatti, tu devi fare sempre come ti ho detto, capito? E sempre bisogna stare attenti, capito? Bene, bene, attento, grazie a Riddu. Luca, l'ha mangiato, sai? No, mi è arrivata una telefonata, non sapevo di chi era quel numero. E questo qua ha sbagliato Luca, stava chiamando al fratello. Infatti lui mi ha detto non ti ho chiamato, come no, se c'ho il tuo numero non c'ho manco il nome, perché purtroppo i numeri li avevo tutti persi e mano a mano li sto recuperando. Cosa mangiando? No, ho già mangiato Gio Marì, dopo ho fatto merenda con le frittelle. Ah, cosa buona hai mangiato oggi a pranzo, senz'altro è arrostito così in campagna. No, niente arrostimento, nulla, e con quella pioggia non fanno, poi c'era freddo. Beh, in campagna di solito c'hanno il barbecue o il camminetto, di solito così, quando uno abita in campagna, chi cambia la sua suocera, no? Via. Allora ci avrà il camminetto, così che si può anche arrostire nel camminetto, se non c'è il bicu fuori, poi quando è fuori magari quando è piove non va bene, no? Chiaro, ma nel camminetto si può fare, dai, come fanno tutti di solito. È importante che abbia mangiato eccetera e c'è il sacchetto pieno, poi gli appuntini, ho detto fuori. Il camminetto lì non è più in funzione, è chiuso, nel senso hanno messo un pannello e non lo usano da anni. Quando il tempo permette si fa fuori, altrimenti niente, mangia lo stesso, anche se non ce l'ha rosso. Ma oggi è un problema, a casa si può cucinare in tante maniere, per cui non c'è non c'è da meravigliarsi, capito? Per cui di solito quando fa queste belle giornate è chiaro che come fai? Si fa tutto dentro casa e tira ne farà tempo bello. A primavera, a arrossire fuori, allora sì. Lo so. E se avete visto cosa ha mangiato, visto cosa ha mangiato tu a pranzo? Ho mangiato un pochetto di macarrone, la poi ma ho mangiato il rucollo con i patati in forno. Qua l'abbiamo mangiato ieri. Sì, buonissime le patate, belle cotte come Dio comanda. C'era qualcuna un po' più annerita. A me così non mi piacciono. Sì. No, a pranzo ho mangiato un po' di pasta asciutta, poi ho mangiato delle rollatine, degli involtini, di pollo e frutta, basta, poi le frittelle, una cosa. Bello, la saccoccia bella piena, Giovanni. È bellissima. Cosa? Cosa hai detto, Giovanni? Tu cosa hai detto? Ho detto la saccoccia bella piena. Ah, io c'è buona, Allora. Senza buffarsi. Ma se sto bene, amico, tutta questa settimana, da domani, venerdì sarò... mi ricovero. così, fanno le analisi di nuovo sicuramente. E poi penso lunedì mi operano. Prego. Filippo Santi, c'è Piero Sacchetto. Ecco, poi andare un sacchetto doveva essere più, non pieno. Ui, bella mia. E come si facciano facendo? Io sentivo un break basso basso, avanti, chi è? Ciao Lu, Giuseppe. Ciao Giuseppe, un po' bassino si stasera, vabbè, forse è il tempo, boh. Comunque saluto in compagnia di Gio Maria, di Graziano e di Vittorio. Avanti Graziano, lo sente Giuseppe? Non l'ho sentito, avanti Giuseppe, buonasera circolari, avanti Giuseppe. Buonasera a tutti, e chi riesce a tirarmi fuori, mannaggia. A te Luca, ti sto tirando fuori con, non lo so, forse è la giornata, con... sotto c'è un rumore proprio come di sottofondo, come un gracchiare, un qualcosa di strano. Oh, guarda adesso Giuseppe, ho cambiato posizione, 1, 2, 3, prova. Adesso pulito. Anche adesso mi sono messo qua e ti ascolto meglio io, dai. Molto meglio. Avanti Gio Mario, lo senti a Giuseppe? Se lo sento io, allora... Chi è che non lo sente? Ciao Giuseppe, buonasera, ben risentito. Come fa? Buonasera a te Gio Maria, ben sentito, mannaggia. Tutto a posto, dai, combattendo con questo tempo, però già, come dicevi tu poco fa, già ci rifacciamo in primavera. Fa piacere Giuseppe, dai, tempo, siamo in tempo suo, questo tempo deve fare Giuseppe. Cazzo, siamo in inverno, per cui anzi non ci possiamo lamentare più di tanto, perché qua freddo non le sta facendo. Infatti, se vediamo quello che sta succedendo fuori, guai, qui ancora già siamo in un'isola felice, ma comunque, tiriamo avanti, dai, avanti Guffetto. Già ce n'è freddo, ma confronta altri posti dove è tutto imbiancato, neve e ghiaccio, lì già non mi vorrei proprio. A chi non puoi né esci e ne fa proprio nulla. Qua anche se piove bene e male, si può uscire. In alcuni posti hanno straripato anche fiumi e lì proprio non si può uscire, solo una vacca si può uscire. Capito miei! Vai Luca! Sì, dai, io riprendo e mi assento. Una ventina di minuti, rimango in ascolto, dai, riprendete voi. Va bene, se lo riprendi ok. E mangia il bocco brittelle che ti va a ringraziare. Gio Maria, avanti tu! Ciao, grazie, buonasera. Io pensavo che era appena a muglio, gatto, invece sei in terra. No, ero sdraiato che mi stavano strapazzando. Ciao, grazie, ciao, Vittorio, buonasera, ben sentito. Ma non hai amici azzeccati, andai in giro a Pischielle invece di rimanere qui in frequenza con i vecchietti? Me lo bevi. Per la domenica non vedi uno, grazie, cosa vuoi che ti dica io? Questa tua era un grillo, da una saletta all'altra saletta, altro che ti ha preso a rubaracchino e con i nonnetti, vero? Gio Maria. Il tempo è suo e lo potrebbe fare benissimo, Certo che meglio di attaccarsi al biechino, Ma non credo. Ma lui quando li fa non lo dice, per cui la sa per lui quando farlo, quando no, vero Vittù? Ascolti, io sono un appassionato per i cigoni, mi ricordo io di 10 anni, non so come giocavo a Vittorio. Vittorio quando si anni, Vittorio si serve a giocare ai buttocchi, quelli a giocare, quelli a... non a caricare i batteri, no, ci amballa ogni mese. Male, io a quell'età stavo già imparando a fare il ginecologo, bello mio. Oi, diglielo tu. Giulio Mari. Ehi, già lo sa, senza dirglielo io già lo sa, grazie. Vediamo Giuseppe che è in parcheggio. Giuseppe, aiuto, illuminaci qualche cosa di buono stasera. Ehi Gian Maria, io Vittorio non riesco a tirarlo fuori per niente. Non so se stia parlando lontano da casa, però manco mezza parola. Sento bene a te, Graziano, ma lui non riesco a tirarlo fuori. Sicuramente lui non sentirà nemmeno me. No, che ti senti? Bene, lo senti, grazie a Giuseppe. Sì, però ogni tanto manca, adesso è mancato, stava parlando con te. Giuseppe, mi senti bene a me? Sei mancato un paio di volte. Sentito lei, Giuseppe. Sì, Graziano lo tiro fuori, Gian Maria. È Vittorio che non sento. Sì. Ok, Vittorio, ciao, Vittorio, capito. Vittorino, anche se le dice che è professionale, però sta lanterna quante l'indice del visto. Non lo so, no, sarà per quello, è a Sant'Orso la Vittorio di abitazione. Ah, ho capito, grazie. Vabbò, ma se lui è giovincello già fa bene a stare in giro. Altro che sta in casa, in giro Gian Maria a cercare nuovi nidi. Ma su te stavo parlando, Vittù. No. Vittorio, non parlare che tu non lo senti, aspetta che sta parlando Giuseppe. Avanti Giuseppe, cosa stavi dicendo? Che io non lo sento da casa a Vittorio. E mi stava dicendo che è lì vicino a Sant'Orsola, se non ho capito male. Ma c'è un portatilino tipo walkie-talkie, là. Va bene, comunque Vittorio è un ragazzo 14enne che abita lì vicino a Sant'Orsola. Perlomeno so così. E niente. Vittorio ti saluta Giuseppe. Ricambiati da Vittorio Giuseppe, i saluti. Aspetta grazie, ma se stavo parlando io, rilascia Vittorio e riprendi tu. Boh, cosa da fare io? Non ti ho sentito. Ma stavo parlando io, Giovanni mi ha sentito a me che poco fa stavo parlando io, ho detto riprendi Vittorio, e ripreso lui. come sempre, cazzo, riceve il micro a un altro e parla lui. È sempre così, Graziano, cazzo. Mi ha pisciato un dito con la mastretta se possibile, perché è dito facile lui, cazzo. Bisogna aspettare un attimino che se si sente già parlare che stanno parlando bisogna starsi zitto un attimino, no? Quando finisce allora può riprendere. Grazie, ma insomma, ma non riprendi Giuseppe. Kappa. Stavo dicendo lui, sei qui in zona allora dovrei tirarlo fuori. Vediamo un po', Vittorio dove sei? Io sono vicino al coso, mi si chiama, vicino al sano. È lì Giuseppe, te do, ecco perché non lo senti. Però lui abita nelle tue coordinate, in mare vicino a casa tua, boh. Kappa. Ho capito. E tu come mi tiri fuori, gioiami? Io ti ascolto benissimo, perfetto. Poco fa ti sentivo flusciato perché ero magari lì nel corridoio. Adesso mi sono messo qua vicino alla camera da letto perché mi risulta verso la parte tua. Perché se vado dall'altra parte non ti sento, Ti ascolto benissimo. Riprendi. Kappa. Io adesso sono nello studio di fronte alla Buddy. Io sono qui di fronte alla finestra e vedo la Buddy. Però ti tiro fuori benissimo. Gian Maria è come che ce l'abbia qui dentro casa. Graziano lo stesso. Graziano lo sento bene, devo essere sincero. Avanti Graziano, fai un passaggio, vediamo come ti tiro fuori adesso. Mi senti bene a me? Anche io a te ti sento abbastanza bene, solo che poco fa sei mancato due o tre passaggi, capito? Già ti tiro pure abbastanza bene. Avanti Luca. Già arrivi, dai. E lui che lui c'ha una radietta così, da piccolina. Vittorio, e per il Gio Marì. Però per quel birichino, Vittorio, va bene quella radio, va benissimo. Io l'ho sentito perfetto, anche se si è coperto anche da palazzi, però arriva, arriva benissimo. Sì, un bel apparecchietto, Così che vediamo un po'. Giuseppe, tu allora non lo senti a Vittorio, nulla? No, Giomarì, negativo. Io sono col gommino del portatile. Io ancora qui non ho fatto niente, non ho messo niente fuori per poter ricevere. Purtroppo sì. Questi qua, se c'è uno sacco avanti non passa, è una frequenza che è balorda veramente, però la vita non è che si possa avere tutto, certe volte secondo la zona, secondo come si trova, magari dove si trova magari arriva, se no lo copre, per cui non passa. Però io molte volte no, lui è in giro e ho visto che lo sento da parecchi posti, per cui va bene quell'apparecchio di Vittorio. Vittorio! Beh, no, Giuseppe inizio già a sentirlo bene, perché quando ero vicino dove c'è Cesaraccio, lo sentivo a scatti. Adesso come mi senti io, Giuseppe, che sono al Bazzano? Adesso ti ho tirato fuori, Vittorio, anche se un pochino a sbalzi, però ti ho tirato fuori. Ho capito, vicino a Cesaraccio. Vabbè, perché molte volte va bene. Io gli apparecchiature non è che siano, 10 km sono i miei, hanno una portata di 10 km, però già vanno bene, mi diglielo Gioma. Va bene, è a Puglia. Se dovessi mettere un attrino esterno, quello fa un bel bene. Perché va, ti puoi immaginare che va bene così con l'attrino suo, piccolino, c'è un attrino piccolino, mi quanto sarà 10-12 centimetri, non di più invece, se. Eppure va bene quell'apparecchietto, Se dovessi essere con l'attrino esterno, allora è tutta un'altra cosa, arriva dappertutto, Ci credo, con l'antennino esterno è tutta una cagupa. Anch'io dove abitavo prima mi collegavo all'altra antenna, Giomarì, e pigliavo vinta da Marte. Ma è così, infatti, allora. Col gommino non è che si possa pretendere più da tanto, però se uno è in alto va bene, ma se magari a piano terreno e l'altro lo stesso non va, perché i palazzi lo coprono. Capito, anche quello c'è, perché è una frequenza balorda, trova un palazzo davanti e non passa assolutamente. Graziano gli arriva, Graziano gli arriva dappertutto, lui arriva anche a Marte, dice che arriva, vero Graziano? E anche nel buco che hanno trovato, che non si sa dove arriva entrando in quel buco. Continua ancora l'aria periferica. io qua è tutto aperto, qua di fronte da me. E poi sono al quarto piano, un poco gli antenni. E già ricevo abbastanza bene, no? A meno che non siano i buchi mali come Antonello l'altro giorno, era tutto messo male e lo ricevevo malissimo. Se no già tiro fuori bene tutti. Capito, Giuseppe? Kappa. E così. No, tu, Grazia, già vai bene. Essendo al quarto piano, bene o male riesci a dominare la zona. E poi è anche abbastanza aperta come, diciamo, come piazzano intorno a te, hai voglia e prendi alla grande. E io devo riuscire a fare un qualcosa di casareccio, se riesco a mettermi fuori qualcosa da poter imboscare, per collegarmi a questo portatile, però non so se si trovi qualcosa o se si possa realizzare un'antennina casareccia. Si può fare, Giuseppe, tu stesso lo puoi fare. però puoi fare tu stesso, per cui non ci sono problemi. Cosicché non è un problema un antennino a farsi un antennino, capisco, se no magari ci vorrebbe uno strumento per provarlo dopo, capisco? Aspettate un attimo. Chi è che ha sopramodulato? Vittorio, ti ha sopramodulato, si comprendia nulla Giomari, né a te né a lui. E chi è che stava parlando? Vittorio Giomari. Per quello, allora mi copriva. Ti disturbava. Buona, un po' non ti copriva del tutto, ma si sentiva più lui di te. Beh, tu, che l'hai vicino, è sotto casa tua quasi. Stavo dicendo, ma per fare questo antennino cosa bisogna prendere? Un pezzo di capo elettrico, certo. Almeno di 50 centimetri, un piede femmina, certo. Ecco, e lì c'è glielo saldi, e dopo sul buco del piede femmina gli saldi un altro pezzettino da 15 centimetri e dopo si regolano le stazionarie, ragazzi, se è più lungo bisogna accorciarlo piano piano, ma ci vuole sempre il rosmetro però, tu il rosmetro per queste qua non ce l'hai? No. Perché se no, ti dico la verità, mi avrebbe fatto comodo un antennino del genere. Così avrei messo da parte questo gommino e magari qualcuno in più ero riuscito a tirarlo fuori. Però per adesso sono limitato. Aspetta che provo questo antennino a vedere se funziona. Un attimino, Giuseppe, riprendi tu Luca. Avanti tu. Sì, adesso mi assento, Ok, te la puoi far costruire anche da Luca che c'ha il rosmetro battametro, questo antennino, a me me l'aveva fatta lui, però l'avevo data a Luca, allora l'avevo regalata, quella che aveva fatto Luca Flipper. E funzionava bene, era un pezzettino di alluminio, di rame, uno spezzone di rame, con una boccola in ottone sopra, all'interno c'era il filo, un 50 centimetri, e poi c'era il PL saldato, femmina, niente, è una cazzata, è un altro pezzettino di tubo, c'era curvato. Te lo faccio vedere, Giuseppe, come farlo. Fatti vedere che c'ho il magazzino, te lo faccio vedere, così che lo puoi fare benissimo tu. Gappa, già è comodo averla, amico Mario. Prima qua, mi senti adesso? Benissimo. Questo l'ho fatto io, e ce l'ho dentro a casa, vedi? Beh, 50 centimetri, è un pezzo da 15 centimetri di radiale, c'ha. Saldato su pelle femmina, capito? Vedi? Vuol dire che va bene. Aspettate, va bene, chiaro. E tu come lo senti, Graziano? Graziano! Sì! Già ti sento bene già. Già sta uscendo bene. Luca! Luca si è sentato, Giomari. Allora vediamo un po', Vittorio, chiama Vittorio Graziano. Vittorio, mi sembra si è spostato a Sintardo, non so, Guri. Luca rientra fra 20 minuti, ha detto, va, fra mezz'oretta, una cosa del genere. Comunque già stai uscendo bene, e già va bene, anche quella, Vittorio, ma... A Giuseppe va bene. Se lo metto sul terrazzino, sulla ringhiera. Cazzo. questo filo è su per giù, basta avere il filo, fatti vedere, ma forse te lo faccio io direttamente. E il cavo mi sembra che ce l'ho io, secondo quanto te ne serve, un pezzo di cavo che ce l'ho io. KK Gian Maria, ti ringrazio, perché se riesco io da qui dal terrazzo di cucina riesco a arrivare bene al diciamo al ferro che sporge, no? Dal muro per il filo da stendere. Se riesco a fargli un foro lì, gliela avvito lì e io sono a posto. Quanti metri di filo di cavo ti servono? Ma cavo ne ho io, dovrei avere del cavo che avevo, soltanto che adesso con il trasloco chissà dove è andata a finire, però di cavo io ne devo avere da qualche parte, Gio Maria. Vabbè, busca tu pelle femmina. Busca tu pelle femmina. E te l'ho pigliato, lo faccio io stesso, dai. Per quanto, ti bisogna che lo vedi per vedere un po' se ti va bene come ce l'ho io, se ti va, se non ti va, capito? Fatti vedere, te lo faccio andare, c'è nel magazzino, no? Per cui non costa niente, dai. L'importante è dopo lo puoi fissare come ho fatto io con un pezzo di piattina in alluminio, l'ho fissato, l'ho fatto un buco, agganciato lì con una vite e poi va benissimo e a voglia. Già lo credo, Gio Maria, sempre meglio che avere l'antennino dentro casa e quello è poco ma sicuro. Lo puoi mettere anche dentro casa, lì. Lo puoi mettere anche dentro casa questa antennina. Magari non è come sia un'antenna esterna, però va, se mica io sono dentro casa, mi devi un po', e sono la parte dietro, non so dove abito, e sono la parte dietro, e poi arrivo da te, arrivo da Grazia, arrivo da... Insomma, già va bene, dai. Oh, Gian Maria, già si difende, dai. Ok. Grazie! Ehi, ma lo devi vedere come fare, se poi sei intenzionato di fare un buco al ferro da stendere, devi vedere dove praticamente devi metterci una squadretta per poi pulire un dadino per avvitarla, capite? Devi vedere presso a poco come vuoi fartelo, capito? Lo dice a Gian Maria, al limite come lo vuoi, e te lo prepara lui, capito? Oh Gesù. KK. Ascolta, ma è per carnevale niente organizziamo? Anda a badare in Cacchirogo. Non ho capito, Giuseppe, ripeto. Ho detto per carnevale, non organizziamo niente, andare a ballare da qualche parte con Graziano. Graziano deve fare il cubo a coso, a Libisoni mi sembra che deve andare. E lui fa la serata lì alle Libisoni. Ah, sapevo che fai il cubo, Graziano. Vero è, Graziano. Sì, già un giorno che sono in pensione. E più badato di chi sono, badato. Già una di chi non vado più a badare. Mia moglie si era iscritta al ballo e va due volte alla settimana. Vuoi andare io, ma non ci sono mai andato, non fa, ui, no, vera di chi non ha giugana, vera di chi non ha giugana, e poi non fa io, mi viene la fanno subito. Oh, io e grazie, altri tempi erano prima comunque. Non mi hanno detto, stavo parlando. Aspetta Vittorio che stava parlando Giuseppe, qualche giorno ti arrestano qui, gli altri che non ti hanno fatto niente. Aspetta che sta finendo di parlare Giuseppe, che l'hai coperto. Giuseppe, riprendi. Ma che c'è, grazie. Già, altri tempi erano comunque quando andavamo noi. Era tutt'altro divertimento quando si andava a ballare. Già lo credo. A Bar non ne vedi più salette come quando andavamo, che c'avevo l'età di Vittorio, 14 anni. Già veniva il poco di salette, da un'entrata all'altra si uscì. Adesso pensano solo a buccarsi i muri, i bizzini di luce, fanno schifo. Vai, Giammari. Beh, grazie, i tempi sono cambiati, si buffano sia da una parte che all'altra, adesso la gioventù di oggi, e non si divertono così. Noi non siamo stati mai capaci a fare quelli che fanno questi ragazzi di oggi. Già ce ne sono bravi, parecchi pure, ma già ce ne sono per carità, purtroppo. Io penso che nemmeno loro se lo vorrebbero una cosa del genere, eppure ci sono in mezzo. La compagnia, oi Giuseppe. E così è. Sì, e anche quando eravamo noi, i ragazzi, lo stesso. Giustamente Graziano, salette ce n'erano, uffa, a quante ne volevi. Noi, però, è troppo, Gio' Maria, adesso è troppo, perché faccia male qualcuno in queste discoteche. E perché siamo andati peggiorando, capito? Troppa roba c'è in giro, troppa roba, e per cui gente tutta sbandata, non sanno cosa fare, cosa non fare. Vediamo quando è troppo, quando abita un gruppo, all'anno è troppo e mezzo l'altro, e allora bisogna stare attenta che ha un grande abuso. Capito, vedi se, certo che prima non erano tutto, quindi adesso di tutti i tipi smarciume, prima era tutta un'altra cosa, dai, voglia, per carità, voglia. Oggi hai visto, insomma è la gioventù, ma si sporcano subito questa, perché non ci hanno altri divertire, vogliono divertirsi assolutamente, e i genitori lo vogliono, e fanno quello che vogliono, e c'è poco da fare, e non riesce addirittura certe volte i genitori a farlo andare dritto come deve andare il figlio, capito? E per cui fanno, poi nemmeno picchiare li puoi, non le puoi dire niente, ti assaltano addirittura. Già. Mi ricordo dall'airport o il Blue Star, quando si aveva i soldi per entrare. Avevamo la roba da bere. Da tutti quanti tranquilli. Ma adesso tu prendi a 60 anni, hai paura di entrare in una discoteca perché non sai mai con chi hai a che fare, Graziano. Cioè, ma te ne rendi conto in che mondo stiamo vivendo? Già lo so che è così. Ma a me tu andassi al cinema a guardare i film degli zombie. Non ci vado più perché basta che ti affaccia e vedi gli zombie dappertutto. Più cinema di quello. È così. Oh, manco è da così. A fare tutte le porcherie che stanno facendo. Si passini a birra, si fanno a vino, l'importante è che tu li vedi tutti quanti rincoglioniti, tutti quanti fatti, che sia di una maniera o che sia dell'altra, e per loro quello è passarsi la giornata. Ehi, ma mi sa tanto che ti so punelli la portante. Ciao Maria, ecco, accoppiato tu, mi sa che la portante è quello. No, io ho copiato tutto il passaggio, portante non l'ho sentito, grazie. Forse rimane dalla parte tua, non sarà Vittorio per caso. Oh, lo sentivo disturbato, a momenti lo copriva del tutto a Giuseppe. Boh, e ci ha visto Vittorio, ma ci sei? Sì, ci sono, grazie, perché sono a Sant'Orso, lascio. Non stavi parlando tu, no? No, non so farlo io sono il punto di ascoltare. Eppure poco prima Giuseppe, tre o quattro passaggi, non l'ho sentito proprio, basso e proprio quasi lo tiravo fuori. Mi aspetto un attimino, grazie, dai, un attimo, mi aspetto, prego subito. Non lo voglio in zona, ma va, mi manca solo la portante, mi grazie, perché sennò è troppo bello farci una chiacchierata tranquillamente. E allora, a me mi sembrava una portante, adesso non è a vivi però, ti ho sentito un po' disturbato, ma ti ho sentito. Grazie, mi assento un attimino, Betto. Adesso Maso è in ascolto, è giusto? Ok, Gianmaria, d'accordo. Sì, Gianmaria, ok, ho sentito. Adesso lo stava parlando Giuseppe, Vittu, ma non lo senti tu perché quando parla? Giuseppe, parla perché si sente Vittorio, lo senti tu? Vittu, vedi se riesci a tirarmi fuori. Vittorio, l'hai copiato. Sembra che non sta neanche parlando. Ti ha chiesto se lo senti. Giuseppe, torna a parlare così a vedere se ti sente. È a Sant'Orsola. KK, Vittorio riesce a sentirmi? K. Vittorio, l'hai copiato. E allora se non lo senti perché sei in zona negativa, non ti sente Giuseppe, tu non l'hai sentito. No, negativo, grazie, Vittorio è fuori portata. E beh, sarà in mezzo ai palazzi, adesso è coperto. Ehi, non c'è soldi. Kappa. Giuseppe, mi assento 5 minuti, vengo subito. Sì, ok, grazie, mi assento anch'io 5 minuti, ci sentiamo tra un po'. Ehi, ehi, faccio che non hai, già sono io, io faccio come mi sento, ecco, grazie, come mi sento. Adesso ti sento bene io, mi devo assentare, rientro fra un po'. Ehi, ehi, vai, vai. Luca, mi senti? Siamo questa profonda entrata del canale, solo una chitarra. Luca, ci sei? Amari! Beh, grazie! Ehi, aspetta un minuto! Davvero! Arrivato, sì. Dove? Sono arrivato. Arrivito sono. Sì, non ti rendi tutto, a mamma. A giusto, vanno, non ti rubi tu. Ehi, addirittura. Ma non c'è altro nessuno? Né Torre, né Bacchiso, nessuno? No, non ho sentito a nessuno. Ha sentito una musichetta. Vira, vira, vira, via, e boom. Dove? Ah, la bicicletta già l'hai intesa allora. Sì, ya. E non lo so cosa hai da baro. Luca è ancora mangiando frittelle. Ah, ma sta via da Edo, gatta. e alla signora Bello Sacchetto e se fate la provincia a Baumesi. Allora, ebbene. Oh, era già mangiato, pure la rinuccia ha già mangiato il pizzo. Però vabbè, ma forse entro una settimana qualche altro pezzo già la mangio, va. Ma entro Ghida però. Entro di Ghida, sì, sì, già me lo mangio qualche pizzo. Oggi niente, già ce li ho i dolci ma non ho mangiato. Oh, domani va, visita e controllo al pulmologo. E mi inizio a un altro poco di sangue. Come? Ai te. Mi prendi, se per la provincia del sangue la prendi in casa sua, graziata, poi si lo vendi. Ti ne succede il sangue. Ma domani ve lo dico, Dico adesso basta, in giro di 3 mesi. E di 1 mese sono qui aiuto, 2 volte mi ne è succiato lì 3 mesi. Ah va, pure oggi, basta, poi ce ne parliamo a Natale, gli dico, a chi non vi vengo più. Ah, beh, ormai ti conosci, a dire che ci annassaggo, così che ti dire un bel poco da voi, vi rubo la bassa e vi rubo, capito? Certo, è macco, no, occhio, grazia, no, danni di più, no. Allora, una di che ha, ogni volta che andate qui vi mi nato. Cure voce fracassate. Beh Giuseppe non c'è più. Chiuso là. Mi era sentato, io glielo detto, anche lui 10 minuti doveva fare cosa, Non ho sentito più nessun altro. Sarà che FNB va, va. Ah, è Vittorio. Vittorio ancora in giro, Si sarà rintanato 30 all'uscio. E cosa fate in carrina? Ne fare in aria. Ti lo dire, non ti vede il freddo dell'Eva. Hai visto se ti giro? Con lo sciapiglio in mano sempre. E allora non abbiamo fatto altro. E la ce la va a cogliere, ci va così, poi le così. Tu, a chi è uno? Quando qualche volta mi arrego, fa vedo proprio, o so che in campagna, oppure non c'è nessuno, che mi veglia. Si vede che le piace. Però occhio, occhio. Già gliel'ho detto l'altro giorno, già. Occhio che ti arrossano. Aspetta, vediamo di no. Vediamo un po', aspetta. Tore! Oh, a 2 giorni lo sento, né a Tore né a Bacchisio. Lei no che ne dà. A Tore si dava la mangiare a drugare gioio, ma a te sì. A chi non li dà da sé a mangiare, allora la mangia da Tore. Bacchisio ci sarà parato 30, un broccolo. E allora bisogna attaccare un broccolo di freddo in mezzo, grazie, a cavallino. Allora, avanti, ha sappato la gazzetta, fra poco mulla la gazzetta come te, la Monza. Fa male, no? Affè la gazzetta, affè la casa, affè la casa, Ivi, con tutta l'attrezzatura, ben fusi, da cadretto. Accendi la baciù e cazzo, e cosa vuoi fare? E allora, c'è di fresca la campagna, non se la fanno, ora rimane disoccupato, non sa che per il cemento, ha disoccupato, però mi ritoccava, davvero mi ritoccava, forse ha chiesto che tu la ballata io. Ma mi sono comparato a regalare un po' di mandarino a rimane. Già la lì non mi sono comparato in campagna. No, è troppo umidità e è freddo. No, no. Andi a legare, che è giovane, io non vado. Ehi, vabbè, grazie. Caro che le consigliere due non è una cosa buona, no, a farla uscire, capito? Ma fa qualche domenica, così, con tutta la famiglia, ma a parte il tempo di fare la campagna, no, non stanzi via la casa, ma non è tempo di fare la campagna, no, è freddo, è umidità. Ehi, già posso pure anni fare, ma passare 31 casa, se ti fermi gli sto ginocchi, pure se faccio tutti le comodità in campagna. A me non mi piace rimanere in sarra di chi, con un camminetto acceso, a me mi piace girare, baitare, fare, se posso fare qualche cosa che posso fare, e se no rimane in sarra di così non mi è mai piaciuto. Vabbè, se tu hai gara di fare la campagna, hai gara di fare che cosa, fare da me se posso fare che cosa, lo manco di fare. Oh no, e chi mi deve fare qualche cosa, ma lo chef, Luca Flipper, a voglia di trotta. Vai, vai. Ma, capisciate, tuo cugnato, o care, capisciate, lo serizza? Oh, me cugnato sta di chi, abita nella casa che gli ho fatto io. E proprio attaccata e si è misusana, però non so attaccata, sono staccata e gli avevo fatto la casa lì, lì vive, gli avevo fatto l'ingressino, un salone grande grande, in fondo l'angolo cottura, poi ho fatto al centro un andettino, camera da letto, bagno e cameretta, già è mannaggia. Già si sta bene, gliel'ho fatta bene la casa, tutta quementata. Poi anche costruire sopra lì, che mi lavo io a fare, ma no, non me ne posso, non me ne ho mai fatto. Se no volendo me l'avrei fatto lì, ma non mi interessa. Insomma, tu il travaglio l'hai fatto malassere, là. Va bene, la panuola villa e mi sarebbe in casa da di mezz'ora. A chi la mi truppe, se no io non mi potevo rimanere, io me ne dovevo fare a casa, tutti i busi. E allora mi sono deciso di darle che ci ho messo e faccio la casa, e me l'ha già fatta io. E cosa cazzo, ma, ui, per carità, e cosa ribiglia, era senza travagliare, puro. Ma sai che abbiamo stato giù, Sarava? Da un bel no? Poco d'anni, no, non mi ricordo quanti anni, però un poco d'anni li sono passati. Sì, ma era solo una casetta, vera, cadu vera età, allora. Ho più manna, mandano a te c'era la casa. No, che mi ha fatto più manna, aveva fatto due gammari in più, due gammari vedani, quando si occupava due camere e due riposti piccoli. Dopo era manco bagno e aveva giubato tutta la veranda, due gammaroni manni, poi li ho tramezzate, ho fatto due camere da letto e il bagno ho fatto e la fossa settica, la val vascone avevo fatto, però il vascone poi nello sconciato quando abbiamo messo l'acqua di città, anche, cioè il pozzo è l'acqua di città. Poi il vascone serviva per innaffiare, perché allora piantavano pure un mezz'uzzara. Però poi non avevamo più piantato e ne ha giocato la midai a terra e io devo realizzare un altro bagno a sui muri. Piatto. Bene, bene, bene. Dai. Ah, manca hai fatto un miglioramento e già va bene, vai. E poi tutto il muro in giro, fatta a fredda, mezzo grosso. Non ce n'era muro quando si occupava di lui, non veniva nulla, solo che ci sono i gammari con questi tre pilastri della verandina. E tutto questo che fa fatto l'ho fatto io, tutto. Impianti di luce, impianti di leva, canto poi. E beh, con la mia cognata è proprio finita la casa. Pantunigalla ho aspettato un 4-5 anni dopo che si è bendata in stata la Gintunigalla. Ma io cosa fa vedi? Leva comunale oppure sul bozzo? C'è acqua comunale, il pozzo ci abbiamo, telefono, luce, la strada asfaltata, tutto il muro di cinta con i paletti, con il filo spinato e la rete, lucitofono, abbozzo, buio in un cancello, tutto c'è, lì puoi vivere tranquillamente. E infatti devi venire alla cappa in una strada, a consolla e da poi passa il vola via, il tram, che ci minori, e se c'è la landriga da Ivi. Ma la strada Ivi è stretta, no? E io con il camion salivo e scendevo bene, tutta la strada occupavo, si cucciavo macchine, si fermava nei cancelli, capito? Ma adesso una macchina, un camion ci passa perché l'aveva allargata un po', capito? Però se primi gli chi ti vende quando basta che camion? E a chi? Visto che ho passato la bozza da Saratoglia, da Raiccia, da Raiccia, ma io avevo due 30 40 anni fa, mi grazia, sono passati chi? Ma non me la metto manco mezz'era, di preciso. A chi era lì? E avevo fatto un pranzo io alla chiesa Santa Natoria e da poi siamo andati da un mese, ci siamo passati questa strada ivi fino alla strada di Tirarina e ho visto che era, però allora era tutta bianca, tutta fossa la strada, però era estrinta. E chi c'è la strada che giri panda a Monte Oro? Giri andando dritto, quando fai la salita, trovi l'incrocio, giri a destra, quella ti porta a Monte Oro e esci sulla strada di Alghero, esci vicino alla Landriga o se no più giù esci, puoi prendere due strade, quella che scende più giù o quella che ne esce vicino alla Landriga, vicino alla chiesa, là. No, siamo passati a Ivi, era la chiesa, era la Andrica, siamo passati a Ivi, siamo passati a quella me la metto, la strada, ma cazzo, dai due lì, allora magari sarà tutta asfaltata, le strade, Ivi magari, non è come c'era 40 anni, 50 anni fa, capito, non è così. No, chiesa di Panda Monte Oro, un pezzo è asfaltato, da voi è bianca, passi bene, solo in vettura, camion non viene in massa, a chi vede un pezzo saranno 300 metri, chi l'ha rilevato così i 30, a chi i padroni si sono posti con l'avvocato e non li hanno espropriato, sono sempre in lotta, chi c'è 300 metri di terreno e passi giusto giusto in vettura. Anche col furgone sono passato io, col camion no però, anche un bel 30. Faccio provato una volta ma non per bassi, anche rasciavo un muro e l'altro. Ho capito. Che tempi allora, cazzo. Va bene, grazie a te. Io chiudo, dai, ci sentiamo domani se c'è coincido, dai. Buon proseguimento di serata, saluto in casa e ci sentiamo, ok, grazie, chiudo. Sì, ciao, buon proseguimento anche a te, tanto nessuno vuoi no cavazza arbuio e niente, ok, ciao. Ok, ciao, chiudo. Amè. Dormi. Dormito sì. Ah, dormito sì. Dormito sì.